vizio, la roba impura. Ammazzo il tempo con cura, almeno dura. Sento le urla, penso che hai paura. Pirla, la tua limitazione è grande quanto una piglia. Zitta merda lurida, travestiti da zorro. Svelta arriva la tua raga, il camion a rimorchio. Tutto porco porto, rime zero stupide. Intasano il tuo corpo come bene, sifilide. Ho un amico, lui beve davvero tanto. Lecca il suo vomito e non rompere il cazzo. La sera fa in fretta a ridurti a pezzi. Non mi prendi neanche col carro a tre. Sì, io rigo dritto sulla pista, resta zitto. Tu righi dritto per la pista, fai di nome Pippo. La mia musica è un misto, esisto grazie a lei. La tua musica è un pasticcio, proprio come Babe. Viva A, F, F, A, N, C, U, L, O. Viva A, F, F, A, N, C, U, L, O. Viva A, F, F, A, N, C, U, L, O. Viva A, F, F, A, N, C, U, L, O. Questo pezzo sei molto matura. Ti metto a 90, come la paura. 69 per 1000, la mia cultura. 200 meno 110, la tua paura. My name is Nex, you have a flat. Forgot your dick, excuse me, Slim. My style underground, electro, techno, pop house. Your style suck my dick in your big house. V-A-F-F-A-N-C-U-L-O.